Il profeta affligge gli stolti e dà luce al cuore dei giusti. A nessuno nega il suo pane, che profuma di luce e di sale. Più nessuno potrà gioire della vittoria o della sconfitta, che il dolore di ogni fratello è sempre una ferita aperta. Il profeta è colui che vive la parola come l'acqua del fiume. Il profeta va per la sua strada, superando ogni confine. In questo mondo di latta si lotta per non dovere più lottare. I profeti hanno urlato con tanto sangue, con tutto il cuore. Io nel vuoto di ogni silenzio, nel respiro di ogni tramonto, lungo valli e distese, al deserto tu dai voce. Di ogni traccia resta un segno in questa terra, in questo mondo, ed ogni sguardo racconta storia, ogni parola una vita intera. Tu mi hai dato il paradiso, tu che sempre hai difeso il tuo cuore scatenato, sempre libero hai vissuto. A te profeta io do il mio cielo, a te per sempre il mio pensiero, a te ribelle che hai dato voce, l'impertinenza è un pugno di luce. Il profeta vive nell'oggi, spolverando il domani. Lui che sa quanto sia dura superare ogni paura, a proteggerti ogni giorno dalle scorie di ogni pianto. Resta chi ha dato se stesso e sarà sempre al tuo fianco. Dei politici non si cura, delle loro false promesse. Lui legge dentro ai cuori, vede tutto dentro e fuori. Il profeta costruisce futuro, ma non è per quello che sia più chiaro. Agli onesti lui dona la forza di restare integro e puro. Io nel vuoto di ogni silenzio, nel respiro di ogni tramonto, lungo valli e distese, al deserto tu dai voce. Di ogni traccia resta un segno in questa terra, in questo mondo, ed ogni sguardo racconta storia, ogni parola una vita intera. Tu mi hai dato il paradiso, tu che sempre hai difeso il tuo cuore scatenato, sempre libero hai vissuto. A te profeta io do il mio cielo, a te per sempre il mio pensiero, a te ribelle che hai dato voce, l'impertinenza è un pugno di luce.